Capitolo 10 di Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Angelica. Le avventure d'Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, traduzione Teodorico Pietrocola. Capitolo 10. La falsa testuggine diè fuori un gran sospiro e passò il rovescio d'una natatoia sugli occhi. Riguardò ad Alice e cercò di parlare, ma per qualche istante i singhiozzi glielo impedirono. «Ehi, pare che abbia un osso attraverso della gola!» disse il grifone e si accinse a scuoterle e a batterle la schiena. Finalmente la falsa testuggine ricoverò la voce e con le lacrime che gli colavano sulle guance riprese il discorso. Forse voi non siete vissuta a lungo tempo nel fondo del mare. No, certo, disse Alice, e forse non siete stata mai presentata a un gambero. Alice stava per dire, una volta gustai. Ma inghiottì la frase e disse: No, mai! Di voi non potete farvi un'idea della bellezza d'una contraddanza de gamberi. No, davvero? Rispose Alice. Ma che mai la contraddanza de gamberi? Ecco, disse il grifone: prima di tutto si forma una linea lunghesso la spiaggia. Due linee! Gridò la falsa testuggine. Foche, testuggini di mare, salmoni e simili. Poi, quando avete tolti via dalla spiaggia i polipi viscosi, e ciò fa perdere molto tempo, interruppe il grifone. Voi fate una Vendée. Ognuno avendo un gambero per cavaliere, gridò il grifone. Eh già, disse la falsa testuggine. Voi fate una Vendée, poi un balancé. Scambiate i gamberi e ritornate in place, continuò il grifone. E poi, capite? Continuò la falsa testuggine. Voi scaraventate i gamberi, urlò il grifone saltando come un matto, nel mare con tutta la vostra forza. Indi, nuotate dietro a loro, strillò il grifone. Fate una capriola nel mare, gridò la falsa testuggine saltellando mattamente qua e là. Scambiate di nuovo i gamberi. Vociò il grifone a squarciagola. Ritornate a terra di nuovo e questa è la prima figura, disse la falsa testuggine, abbassando la voce tutto a un tratto, e le due bestie, che pur dianzi saltavano follemente, si sdraiarono meste, silenziose, e guardarono Alice. Debbe essere una gran bella contraddanza, cotesta, disse timidamente Alice. Ne vorreste avere un saggio? Domandò la falsa testuggine. Mi piacerebbe di molto, disse Alice. Animo dunque, facciamo la prima figura, disse la falsa testuggine al grifone. Possiamo farla senza gamberi, sapete? Chi canterà? Cantate voi, disse il grifone. Io ho dimenticate le parole. E cominciarono a ballare gravemente intorno ad Alice, pestando i piedi quando le si avvicinavano troppo e battendo il tempo con le zampe davanti, mentre la falsa testuggine cantava adagio adagio e mestamente. Nasel disse a Lumaca: cammina un po' più lesta, che un porcellin di mare la coda mica calpesta. Già gamberi e testudi sen vengono a fidanza e aspettano il segnale per cominciare la danza. Volete voi volete? Volete voi ballare? Volete voi volete? Co gamberi danzare? Che gioia, che delizia, innanzi e indietro andremo. Nel maschera ventati, co gamberi saremo. Rispose la lumaca: oimè, gli è un po' lontano. A me non piace un ballo, co tanto ardito e strano. Volete voi volete? Volete voi ballare? Volete voi volete co gamberi danzare? Che male, gli rispose il candido nasello. Di là c'è un'altra sponda, c'è un suolo assai più bello. Dall'Adria alla Dalmazia faremo un salto audace. Oh, non temer, carina, sta quieta e vivi in pace. Volete voi volete? Volete voi ballare? Volete voi volete co gamberi danzare? Grazie tante, è una bella contraddanza, disse Alice lieta che fosse finita. E poi quel canto curioso del nasello mi piace tanto. A proposito dei naselli, disse la falsa testuggine, essi sono. Voi ne avete veduti, non è vero? Sì, rispose Alice, li ho veduti spesso a Tavo. E inghiottì il resto della parola. Non so dove sia Tavo, disse la falsa testuggine, ma se voi li avete veduti spesso, sapete che cosa sono. Lo credo, rispose Alice raccorgendosi. Hanno la coda in bocca e sono tutti coperti di pan grattato. Vi ingannate in quanto al pan grattato, soggiunse la falsa testuggine. Le miche di pane sparirebbero nel mare, ma essi hanno però la coda in bocca e la ragione è questa. E qui la falsa tartaruga sbadigliò e chiuse gli occhi. Diteglielo a voi la ragione, chiese il grifone. La ragione è la seguente, disse il grifone. Essi vollero andare a ballo co' gamberi e così furono buttati nel mare e così fecero il capitombolo molto al di là e così si attaccarono la coda in bocca e così non potettero distaccarsela più. E questo è quanto. Grazie, disse Alice, davvero interessante. Non ne seppi mai tanto intorno a naselli. Presto, fateci un racconto delle vostre avventure, disse il grifone. Ve ne potrei raccontare cominciando da stamane, disse Alice assai timidamente. Ma è inutile raccontarvi quelle di ieri, perché ieri io ero tutt'altra persona. Oh! Spiegateci ciò, disse la falsa testuggine. No, no, prima le avventure, esclamò il grifone impaziente. Le spiegazioni sono lungaggini noiose. Così Alice cominciò a raccontar loro i casi suoi sin dal momento che incontrò il coniglio bianco, ma ben tosto cominciò a sentire un poco di paura che le due bestie le si erano appiccicate ai fianchi, slargando gli occhi e spalancando le bocche. Però, in pochi istanti, la piccina si riebbe dal timore. I suoi uditori si mantennero quieti sino a che ella giunse alla ripetizione del «Guglielmo, tu sei vecchio!» da lei fatta al bruco, e siccome le parole le uscivano tutte diverse dal vero originale, la falsa testuggine diè fuori uno dei suoi sospironi e disse: È curioso davvero! È curioso come la curiosità! Esclamò il grifone. È uscito fuori tutto diverso, soggiunse la falsa testuggine dopo averci riflettuto sopra. Vorrei che ella ci recitasse qualche cosa ora. Dille che cominci! E guardò il grifone pensando che egli avesse autorità sopra Alice. Levatevi! Disse il grifone. E ripeteteci la canzone piemontese 30-40. Oh, come queste bestie comandano e fanno recitare le lezioni! Pensò Alice. Sarebbe lo stesso per me che fossi a scuola. Ciò nondimeno si levò e cominciò a ripetere quel canto. Ma la sua testolina era tanto piena di gambe e di contraddanze che non sapea che si dicesse, e i versi uscirono fuori assai male. Son 30 e son 40, il gambero già canta, man troppo abbrustolito, mi voglio incipriare, in faccia a questo specchio mi voglio spazzolare e voglio rivoltare e piedi e naso in su. Ma cotesto costì, gli è diverso da quello che io recitava quando ero bimbo, disse il grifone. Non l'ho mai sentito prima, osservò la falsa testuggine, ma gli è sciocco oltre misura. Alice non rispose, ma sedette con la faccia nascosta fra le mani, pensando se mai le cose tornassero una volta al loro corso naturale. Vorrei che me lo spiegaste, domandò la falsa testuggine. Non sa spiegarlo, disse il grifone. Cominciate la seconda strofa. A proposito di piedi, continuò la falsa testuggine. Come poteva egli rivoltarli e col naso per giunta? È la prima posizione nel ballo, disse Alice, ma era talmente imbarazzata con quell'argomento che non vedeva il momento di mutar soggetto. Continuate la seconda strofa, replicò il grifone con impazienza. Comincia bianca la sera. Alice non osava disubbidire, benché fosse sicura che la reciterebbe tutta al rovescio, e disse con voce tremante: Bianca la sera appare, nel lor giardino in fretta mangiavano un pasticcio l'ostrica e la civetta. Perché recitarci tutte coteste sciocchezze? Interruppe la falsa testuggine. Se non ce le spiegate. È una vera babella di confusione. Sì, ma fareste meglio di smettere, disse il grifone, e Alice fu lieta di terminare quella filastrocca. Vogliamo provare un'altra figura della contraddanza dei gamberi? Continuò il grifone. O preferireste invece una canzona dalla falsa testuggine? Oh sì, una canzona! Se la falsa testuggine vorrà cantarcela, rispose Alice, ma con tanta premura che il grifone gridò con una voce di bestia offesa. Ah! Chi può spiegare i gusti altrui? Compare, cantaci la canzona della zuppa di testuggine! La falsa testuggine sospirò profondamente e con voce talvolta soffocata da singhiozzi cantò così: Astro di sera, o verdeggiante ricca, zuppa che fumi in concava zuppiera, in te rapito il cucchiaion si ficca e ne riempie una scodella intiera. Astro di sera, deliziosa zuppa, in te il mio pan si inzuppa e di te canto, oh zuppa! Canto all'astro di sera, canto alla tua bontà, civile zuppa. Astro di sera, e chi sarà lo sciocco che a te preferirà sia pesce o caccia? Sei di te può comprarne anche un baiocco per lavarsi lo stomaco e la faccia? Astro di sera, deliziosa zuppa, in te il mio pan si inzuppa e di te canto, oh zuppa! Canto all'astro di sera, canto la tua bontà, civile zuppa. Bis, il coro! Gridò il grifone. La falsa testuggine si preparava a ripeterlo quando s'udì una voce in distanza. Comincia il processo! Vieni, vieni! Gridò il grifone e prendendo Alice per mano fuggì con lei senza aspettare la fine del coro. Che processo? Domandò Alice, tutta affannata mentre fuggiva. Ma il grifone rispose soltanto Vieni! E scappava più lesto, mentre il vento portava sempre più debolmente alle loro orecchie l'eco fuggevole delle parole soavi e malinconiche. Canto all'astro di sera, canto la tua bontà civile zuppa! Fine del capitolo 10. Registrazione di Angelica.